fuori delle tasse. Perché questo premia il cuore. Ok, quindi quando ripenso a vari casi nei quali persone normali han perso tutto per colpa di mani lavate con mel, ma indifferenza colma della giustizia, rimane solo l'apparenza senza virtù e con lode nella frode, marionette comandate non da fili ma da banconote. Rancore cresce, odio nasce, la voglia di dire la papa infastidisce coloro che da dietro si pario dirigono, comprimono quello che dicono. Verità nascoste, danaro nelle buste, truffe, troppo sopporto il nostro animo, finiamo poi nel panico quando subiamo da un errore titanico e il dolore diventa laconico, diventa laconico. Droga nei sacchetti, sacco e vanzetti, l'ingiustizia parla troppi dialetti, mentre l'abuso di potere fa tacere la gente per bene. Cominciamo a reagire prima di mettere la parola fine. Cominciamo a reagire prima di mettere la parola fine. Ora, davanti a questa legge siamo tutti uguali, non come umani ma per conti bancari, finti magistrati dentro i nostri tribunali, leggi non uguali ma uguali criminali. Davanti a questa legge siamo tutti uguali, non come umani ma per conti bancari, rinchiudiamo delle pecore, leggiamo dei maiali, altri nomi in memoria sopra i marmi circolari. Sta cimitero in una bara e mogano, tronchesatemo un garofano e TG non concordano. Chi dice uccisa per un colpo a bruciapelo, chi dice che è vero fu vittima ad un cancro all'esofago, mentre tra il popolo uno festeggia, l'altro impreca. Io credo sia l'inizio di una tragedia, mentre i mass media senza paura l'accostano alla fortuna, poiché la considerano cieca, povera e incompresa. La sua voce è coperta da chi da lei si aspettava vendetta, da chi pensa che giustiziare sia la sua naturale forma d'essenza, l'etica morale presenzia la sedia elettrica, pena capitale sotto il gioco dell'estetica. Ognuno se la fa adesso è stile far west, west. Non capisco più quale sia quella autentica. Davanti a questa legge siamo tutti uguali, non come umani ma per colpi bancari, finti magistrati dentro i nostri tribunali, leggi non uguali ma uguali criminali. Davanti a questa legge siamo tutti uguali, non come umani ma per conti bancari, rinchiudiamo delle pecore, leggiamo dei maiali, altri nomi in memoria sopra i marmi circolari. Dove vivo la giustizia scorre molto lenta, dopo sei mesi siamo ancora al punto di partenza, e c'è un luogo comune, un'assurda convinzione che mette la giustizia pari ad una punizione. Vedo paesi in cui anche la morte è legittima, ma muoio un assassino tanto quanto la sua vittima. Giuria televisiva dove tutto è giudicato, scarica un film porno e verrai sospettato. La tragedia guarda come ci mangia la tele, per questo non ho pianto Tommaso Samuele, perché non vedo giustizia nel mio codice penale, vedo legge non giustizia dentro un tribunale. Siamo ancora fieri dei presidenti precedenti, ci votiamo presidenti con troppi precedenti. Sono una voce muta, una vita venduta, una speranza perduta, una fede taciuta. Davanti a questa legge siamo tutti uguali, non come umani ma per conti bancari, finti magistrati dentro i nostri tribunali, leggi non uguali ma uguali criminali. Davanti a questa legge siamo tutti uguali, non come umani ma per conti bancari, rinchiudiamo delle pecore, leggiamo dei maiali, altri nomi in memoria sopra i marmi circolari. E gli esattori delle tasse applaudono. Gli esattori delle tasse con il loro rap hanno vinto il premio di qualità per il tema della giustizia. Il premio è intitolato ad Alberto Sacchetti.